Aspettando con costanza che arrivi Meazza, la Rossani presenta Due di Denari. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rossani e Mauro Meazza. Ci avrebbe un'idea. E beh, fatta venì. Ma andrà che se te mica so io. E l'idea mi è venuta. De Callas! È un'idea per la quale servirebbe un'abilità istrionica che non so se mi posso fidare di voi due, ma stavolta fidamese. È un'idea che ci consentirebbe di castigare uno che da tempo ha castigato. Erburino più infame di tutti i burini. Il burino più infame di tutti i burini, che in Italia potrebbe essere anche l'evasione fiscale. Pensate quanto l'abbiamo presa alla larga, ma anche noi volevamo iniziare con questo omaggio al grande Gigi Proietti, che ci ha lasciato questa mattina presto, e abbiamo utilizzato un grande classico della sua cinematografia, Febbre da cavallo del 1986, è la storia, interpretato insieme ad un altro grandissimo Enrico Montesano, Tre amici. Questa è la storia che appunto propone questo film. Tre amici con il vizietto delle scommesse con i cavalli perdono un sacco di soldi puntando perennemente sul cavallo sbagliato, ma ad un certo punto, per dare uno scossone alle loro finanze, decidono di truccare una corsa. Qua in Italia, perché abbiamo voluto proporvi proprio questo brano tratto da questo film, in realtà abbiamo trovato proprio il pezzo giusto, lo ha fatto Marco Lombardo per noi questa mattina, perché volevamo raccontarvi anche quello che sta succedendo nel nostro paese. Lo sapete, vi stiamo da settimane raccontando di tutte quelle iniziative, del grande impianto che il governo sta mettendo insieme per combattere l'evasione fiscale. Fra le tante misure, partirà al più presto, nelle prossime settimane, il cashback, e noi questa mattina ne parleremo diffusamente come tema di approfondimento. Ma l'altra notizia è che è fissata per il 14 gennaio dell'anno prossimo la prima data, la data della prima estrazione settimanale della nuova lotteria degli scontrini, che dunque è ai nastri di partenza e ufficialmente pronta a partire. Il 14 gennaio è la giornata nella quale saranno premiati sia i consumatori che hanno pagato cash, sia quelli che hanno utilizzato carte, bancomat e applicazioni di pagamento per i loro acquisti. La lotteria esclude a priori gli acquisti con l'e-commerce, ve lo abbiamo ricordato anche in altre puntate, e tutte le spese effettuate nell'attività di impresa o professionale, così come le spese che danno diritto a bonus fiscali, come per esempio l'acquisto di medicinali. Disco rosso anche per gli under 18, per gli stranieri che vengono a fare shopping in Italia, però insomma la platea di chi potrà aderire a questa iniziativa è estremamente ampia. Allora, il Sole 24 Ore di oggi propone una guida alla lotteria degli scontrini in 9 passaggi, e il primo passaggio, che vi segnalo, poi tutti gli altri potete trovarli nella spiegazione molto puntuale che fa il Sole questa mattina. La prima fase, cioè per poter partecipare alla lotteria degli scontrini, che avrà delle estrazioni settimanali, mensili e periodiche, bisogna registrarsi nel portale che verrà appositamente attivato e farsi appropriarsi di un codice personale che sarà associato al codice fiscale. Una volta che ognuno di noi avrà il suo codice personale, potrà con questo, se lo potrà scrivere su un pezzo di carta oppure memorizzarlo sul telefono, quando farà gli acquisti lo dovrà esibire al commerciante, all'esercente, che a sua volta appunto lo dovrà associare al pagamento che viene fatto in questo momento per l'articolo acquistato, Da lì in poi, appunto, una volta che verrà attivato il portale di tutta l'operazione, si potrà andare a controllare settimanalmente oppure mensilmente se il proprio codice è stato estratto appunto, e quindi potrà vincere tutto quello che viene messo in palio. Insomma, pare Tutto molto complicato, soprattutto perché ci sono questi portali che devono attivarsi, come per esempio quello per ottenere il bonus per l'acquisto della bici, del quale parleremo questa mattina, ma ci stiamo sempre di più digitalizzando e quindi questo è tutto un meccanismo di grandi novità con il quale ci dobbiamo prendere sempre più confidenza. Allora, c'è poi l'operazione del cashback, come sapete, che è pronta a partire, anche in questo caso grande impegnativa iniziativa del governo. Noi vi chiederemo questa mattina quali strumenti avete adottato, che cosa vi convince o meno di questa operazione. Il cashback è lo Stato che ti restituisce parte delle spese che sostieni, se però queste spese le paghi naturalmente con sistemi elettronici, con moneta elettronica, quindi carta o bancomat. Perché ne vogliamo parlare questa mattina? Non tanto per riepilogare tutta l'operazione, ma perché questa iniziativa del governo complessiva ha messo in moto un grande fermento nel settore dei sistemi di pagamento, al punto che anche Enel entra in campo con la sua proposta. Noi abbiamo voluto capirci qualcosa in più e questa mattina ci faremo raccontare che cosa questa azienda, che fa tutt'altro, come sapete, sta mettendo a disposizione dei propri clienti o anche di nuovi clienti che vorranno, come dire, utilizzare Enel anche come banca. Quindi anche questa è la novità. 800 24 00 24, numero verde che come sempre vi consente di intervenire in diretta, oppure se volete scriveteci al 349 238 6666. Prima di tutto questo però, come sapete, abbiamo l'impegno del lunedì, che è quello con i mercati finanziari. Meteo Borsa. Ci sembra abbastanza scontato dirlo, ma insomma è chiaro che tutta l'attenzione questa settimana è sulle presidenziali americane. Domani si va al voto, quindi vedremo intanto se il risultato delle prossime ore sarà un risultato certo o incerto, se sarà un risultato che Trump metterà in discussione, perché poi quando c'è incertezza sui mercati, anche relazionata alle questioni politiche, il mercato non è mai contento. Quindi a prescindere dal voto che sarà dirottato o verso Joe Biden o verso Donald Trump, il mercato vuole sempre comunque certezza delle decisioni, e questo è un primo tema. Ce ne sono poi altri questa mattina che all'inizio condizionavano la seduta in Europa: il Covid, le nuove misure di restrizione, quelle già prese dalla Francia, dalla Germania, e quelle di cui si sta discutendo con grande difficoltà anche nel nostro paese. Insomma, tutto questo stamattina aveva fatto partire di nuovo con nervosismo la seduta in Europa. Poi c'è stato un cambio di idea, adesso tutti gli indici sono positivi, anche abbastanza positivi. Che cosa dovremmo guardare nei prossimi giorni? Lo chiediamo a Marco Piersimoni, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management. Ben trovato e buongiorno. Buongiorno a tutti e buongiorno a chi ci ascolta. E allora, tutti collegati con gli Stati Uniti, dobbiamo cambiare un po' il nostro fuso orario, lo faremo sicuramente molto volentieri nei prossimi giorni, perché poi a prescindere dalle ricadute sui mercati finanziari, sulle ricadute economiche, come dire, sempre abbastanza affascinante guardare a quello che accade negli Stati Uniti. Si sta continuando a votare anche in queste ore, perché come sapete c'è anche il meccanismo del voto anticipato, stanno esprimendo il loro voto gli early voters, come si dice negli Stati Uniti, c'è anche il voto postale e quindi c'è anche grande attesa per capire se gli stati che tradizionalmente hanno una vocazione repubblicana cambieranno idea. C'è grande attenzione al Texas in queste ore, ma insomma non voglio fare un commento politico. Andiamo ai mercati. Piersimoni, che cosa si aspettano, quali sono le vostre sensazioni? I mercati si aspettano essenzialmente due cose: si aspettano una vittoria del candidato democratico, per cui di vedere Joe Biden alla Casa Bianca, e su questo effettivamente, guardando a diversi indicatori di mercati finanziari, i dubbi sono relativamente pochi. E oltre a questo, i mercati si aspettano anche il passaggio di mano anche del Senato. In questo momento il Senato è in mano repubblicana, la Camera è in mano ai democratici, per cui guardando ad una serie di sondaggi oppure anche al mercato delle scommesse, essenzialmente lo scenario centrale, quello forse più probabile, è di vedere Biden alla Casa Bianca e di vedere un Parlamento monocolore, il colore blu, che è quello dei democratici. Per cui questo è infatti che è molto importante, perché È importante questo perché poi naturalmente ogni iniziativa di qualunque tipo chiaramente può essere intrapresa più velocemente, a partire anche dal famoso piano di stimoli all'economia che avrebbe dovuto essere approvato nelle settimane passate, ma naturalmente proprio per la difficoltà di trovare un accordo fra repubblicani e democratici è stato rinviato al post elezioni, Pier Simoni. Quindi questo è uno dei tanti esempi che ci fa capire quanto è importante avere tutto il congresso americano di un unico colore. Esattamente, ricordiamo bene che tutti ciò che sono programmi di spesa pubblica, di politica delle tasse, di politica fiscale, il Presidente ha un'autorità, ma l'autorità essenzialmente risiede nel Parlamento, per cui è evidente che tutte le volte che c'è bisogno, come c'è stato bisogno e come verosimilmente ci sarà bisogno, di uno stimolo fiscale importante e anche abbastanza con un tempismo di alto livello, avere un congresso per cui il Parlamento di un colore solo facilita di molto questa possibilità. Diverso è il discorso invece per la politica estera. La politica estera negli Stati Uniti invece è prerogativa quasi esclusiva del Presidente, così come la politica commerciale, per cui possiamo essenzialmente distinguere due piani. Il piano interno serve assolutamente un congresso monocolore, il piano estero invece l'agenda viene dettata dal Presidente più o meno in maniera indipendente da quale ci sia il colore del Parlamento. È comunque una questione estremamente complessa, oltre che interessante, come ho detto prima. In gioco ci sono anche i rapporti con la Cina, la questione delle relazioni commerciali internazionali che, come sapete, Trump ha messo in discussione su più fronti, e quindi vedremo anche prossimamente. Questo sarà un tema importante, immagino, Pier Simoni, alla luce degli effetti che la pandemia sta provocando a livello economico mondiale, e quindi anche un equilibrio commerciale quando usciremo dalla pandemia sarà importante trovarlo, e quindi ci sono ricette differenti, no, forse non tanto, perché per la verità nei rapporti non con tanto, la Cina Biden e Trump, esatto, la vedono nello stesso modo, sì. Esattamente, esattamente, ma direi che non si tratta solo di Biden e Trump, si tratta proprio di un sentire comune a entrambi i partiti americani. Faccio solo un esempio: quando ci fu il massimo dell'escalation tra Cina e Hong Kong, il Senato americano votò una mozione essenzialmente simbolica, ma di condanna delle azioni cinesi nei confronti di Hong Kong e della riduzione delle libertà civili. Ecco, questa mozione passò 100-0, che ci lascia immaginare tutto il ovviamente l'accordo che possiamo vedere in un sentimento diffusamente critico nei confronti della Cina e trasversale a entrambi i partiti. Quello che cambierà verosimilmente sono due cose: innanzitutto cambieranno i modi, e questo sembra un dettaglio, ma in realtà non lo è. Ossia, non si parlerà più probabilmente tramite dei tweet, e non verranno più prese delle decisioni importanti come l'aumento di dazi e tariffe tramite un tweet del Presidente, ma probabilmente si riprenderà in mano il tavolo degli organismi deposti a fare questo tipo di ragionamento e di manovre, ad esempio l'Organizzazione Mondiale del Commercio o tutti i tavoli bilaterali che spesso e volentieri sono saltati. In secondo luogo, a parte la Cina, quello che invece verosimilmente cambierà sarà un atteggiamento diverso, ammesso che ci sia Biden presidente, perché questo è poi tutto da vedere, un atteggiamento diverso nei confronti dell'Europa, dell'Europa e della NATO, per cui entrambi queste relazioni, questa storica amicizia sono state più volte messe in discussione da Trump, a volte anche semplicemente per ragioni commerciali. Da questo punto di vista invece una presidenza Biden potrebbe farci ritornare al vecchio spirito atlantico, al vecchio asso con l'Europa, ammesso più durante dal dopoguerra in poi. E allora? Dobbiamo avere pazienza ancora per un paio di giorni, e andiamo all'Europa. Magari pochi giorni o le contestazioni, esatto, in realtà, è vero. Sono due le possibilità, non solo la contestazione, che sarebbe chiaramente una cosa molto invisa ai mercati, ovviamente, ma oppure ma magari un voto vicino, percentuali vicine che richiederanno il conteggio. Che richiederanno conteggi più approfonditi. Insomma, se vogliamo dare lo scenario più semplice, il primo stato a contare i voti è la Florida, è anche il primo stato a chiudere i seggi, li chiude alle 7 orario di Miami, che sono le 1 di notte di mercoledì. Se la Florida passa in mano ai democratici, le elezioni sono già finite. Ah, benissimo, allora noi prendiamo atto di queste nostre personalissime previsioni di due di denari insieme a Marco Piersimoni. Farei però una veloce analisi anche della situazione europea. Guarderemo come europea quello che succede negli Stati Uniti. Intanto stiamo guardando alle misure di contenimento importante, a tutte le decisioni e le misure che le grandi economie stanno prendendo. Siamo un po' appesi anche alle scelte che farà il nostro governo. Piersimoni, le chiedo un commento generale rispetto a questo. I mercati finanziari questa settimana hanno duramente apprezzato i nuovi lockdown parziali, pur se parziali, appunto presi da Francia e Germania, dalla Spagna, e adesso ci accingiamo a farlo anche noi. L'economia sta pagando un dazio molto importante alla pandemia, naturalmente. Quanto dureranno questi effetti? Insomma, voi che cosa prevedete? Io credo che ci siano due considerazioni da fare. La prima è distinguere sempre il piano dell'economia da quello dei mercati. In particolare, che cosa conta davvero? Per i mercati conta il dopodomani, non il domani, ossia capire se innanzitutto questo lockdown o questi lockdown parziali possono essere risolutivi, e in realtà lo possono essere, e dopodiché chiedersi anche: ma dopo il secondo lockdown ce ne sarà un terzo? Perché a questo punto diventerebbe davvero complicato. È chiaro che se il terzo lockdown è l'ultimo in attesa del vaccino, paradossalmente per i mercati non c'è più nessun problema. Nel senso, il mercato guarda 3-6 mesi avanti, dice va bene, soffriremo adesso dal punto di vista economico, ma poi probabilmente ce ne sarà forse un altro, ma poi c'è il vaccino e tutto sarà risolto. Questo è lo scenario che il mercato sta apprezzando in questo momento. Ricordiamoci che il mercato si è spaventato dell'inazione dei governi, non dell'azione. Ossia, il mercato legge nel lockdown una soluzione che effettivamente in primavera ha funzionato, e per cui confida che possa funzionare anche in questi mesi di autunno e d'inverno. È chiaro che però deve essere fatto con tempismo, possibilmente a livello coordinato dal punto di vista europeo, perché è chiaro che se l'Italia fa il lockdown ma non lo fanno nella Francia, nell'Austria, nella Svizzera, non serve a niente, no? Il lockdown fatto in Italia, con le frontiere aperte. Da qui le parole della Merkel, che ha richiesto unità di intenti, più o meno ci siamo, e questo forse è anche il motivo della stabilizzazione dei mercati nel corso dell'ultima seduta. Grazie a Marco Piersimoni di Pictet per essere stato con noi sui temi di Piazza Affari. Vi aggiorno io fra pochissimi minuti. Adesso andiamo al giornale radio del risparmio. Ta-na-na-na, amore, i soldi. Ta-na-na-na-na. And we're down, we go. Allora, ancora una volta riparliamo di questo tema molto rapidamente, ma magari ci ritorneremo, perché ciclicamente qualcuno di voi ci scrive rappresentandoci questo problema. La crisi economica legata all'emergenza sanitaria sta ricadendo anche sull'assegno di separazione e su quello divorzile, sull'assegno di divorzio in particolar modo, perché sono stati molti gli ex partner a chiedere la revisione delle condizioni di separazione o di divorzio dopo aver subito la riduzione dei redditi a causa del lockdown. E questo viene testimoniato dal fatto che numerose fra le recenti pronunce dei tribunali e anche della Cassazione si sono trovate a valutare domande di modifica delle disposizioni già stabilite sull'assegno. Rifà un affresco su tutto questa mattina molto puntuale il nostro avvocato di famiglia Giorgio Vaccaro, pagina 20 delle Sole per l'appunto, che riepiloga anche gli elementi che differenziano assegno divorzile e di mantenimento, e quando l'uno scatta in sostituzione dell'altro. E quindi un affresco appunto da leggere sicuramente. Per l'assegno divorzile, magari lo ricordo, occorre considerare anche un altro elemento: le decisioni di revisione degli assegni sono in aumento perché i giudici stanno disapplicando il concetto del tenore di vita nella quantificazione del contributo, e questo sulla base di quanto ha stabilito la Cassazione negli ultimi anni, come ricorderete la famosa sentenza Grilli, che ha cancellato questo principio per stabilire l'ammontare dell'assegno. Allora, un'altra cosa che vi voglio segnalare dal Sole questa mattina riguarda un tema che noi abbiamo anche parzialmente toccato la settimana scorsa, lo ricorderete. Allora, sono sospesi gli spettacoli dal vivo, i concerti, le proiezioni cinematografiche, sono chiuse le palestre, le piscine, i centri benessere, gli impianti sciistici, i parchi tematici, i parchi divertimento. Questi sono alcuni dei punti chiave del mini lockdown deciso poco più di una settimana fa, che peraltro solamente ad elencarlo così ci sembra tutt'altro che mini, ma altre restrizioni arriveranno e allora tanti consumatori, lo sapete, rimangono in mano biglietti e abbonamenti già acquistati, ma almeno per ora inutilizzabili. Cosa fare? È possibile farsi rimborsare? Valentina Maglione e Marisa Marraffino oggi sul Sole lo spiegano molto accuratamente. A chiarire la questione è il decreto Ristori e in pratica viene riproposta la norma introdotta a marzo dal decreto Cura Italia, che aveva previsto che i contratti per gli spettacoli fossero risolti per impossibilità sopravvenuta della prestazione, lo dice chiaramente il Codice Civile, e quindi al posto del biglietto gli spettatori potevano richiedere un voucher da usare entro 18 mesi. Ora il meccanismo è lo stesso, gli spettatori hanno 30 giorni per chiedere il voucher fino al 28 novembre e potranno usarlo entro 18 mesi, chiaramente a patto che poi gli stessi spettacoli possano essere riproposti dai palcoscenici, dai cinema, dai teatri e quant'altro, per cui per adesso viene data questa possibilità, un voucher che ha una durata di 18 mesi, naturalmente nella speranza che tutto ritorni al più presto nelle condizioni di poter fruire di queste possibilità. Un'altra cosa, l'ultima che voglio ricordarvi, che domani, a proposito del decreto Ristori, c'è un super speciale delle Sole 24 Ore, un focus in cui vengono elencate con grande dettaglio tutte le attività che possono accedere al beneficio, tutti i requisiti economici che bisogna avere per poterne fare richiesta e anche le regole procedurali. Magari domani ve lo racconto anche meglio. Adesso abbiamo il nostro sportello reclami. Dillo a due di denari. Deborah, volevo chiederti, ma per quanto riguarda sti benedetti rimborsi per banche etrorie, fondi di diritto risparmiatori, sai quando verranno fatti i pagamenti? Grazie. Allora, anche qui la questione è stata piuttosto complessa. Io intanto dico all'ascoltatore che se ha un caso complesso ci può scrivere a duedidenari@radio24.it. Noi abbiamo l'avvocato Letizia Vescovini che ci aiuta tantissimo a dare una risposta puntuale a tutti gli ascoltatori per i loro casi. Da quello che ci risulta, sono iniziate il 2 ottobre le prime operazioni di rimborso ai risparmiatori vittime delle banche risolte. La commissione tecnica del FIR, il fondo indennizzo risparmiatori, dopo una settimana aveva già controllato 38.000 domande su un totale di 144.000, 99.000 pensate sono venete. Probabilmente però ci risulta che i primi a ricevere l'acconto saranno i risparmiatori del Centro Italia, che sono riusciti a ricevere in meno tempo dalle proprie banche tutta la documentazione necessaria per fare la domanda da inoltrare appunto al FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori, che ricordiamo è stato istituito nel 2018, una dotazione da 1,5 miliardi di euro per 3 anni per i risparmiatori che si erano trovati in maggiore difficoltà. Per cui fateci sapere se a voi il ristoro in questo senso è arrivato, visto che tutto è partito il 2 ottobre. Adesso rapidamente vi racconto la borsa di oggi e poi andiamo al tema di questa giornata. Da Monterosa a Viale Sarca con Rosciani Meazza, in borsa si sbarca. Di denari. Cashback, così gli anziani restano praticamente esclusi. Buon lavoro. Guardi, adesso mi spiace anche dover tirare fuori la questione degli anziani, che è il grande tema peraltro del dibattito in queste ore. Li lasciamo a casa per proteggerli dal Covid, li facciamo uscire. Io ritengo anche che ben pochi anziani oggi hanno difficoltà ad utilizzare il bancomat per fare delle spese, probabilmente qualcuno un po' meno preparato, molti di noi però, molti di noi, io non voglio definirmi adesso ancora anziana, ma insomma molti anziani hanno anche dei figli, dei nipoti, possono farsi aiutare, non è poi così complicato. Mi rendo conto che c'è ancora questa problematica di come dire, affezione al contante nel nostro paese e un po' di resistenza all'utilizzo della moneta elettronica, però insomma forse questo è anche il momento buono per fare un po' un salto di qualità. In ogni caso, parte a breve il piano cashback pensato dal governo per incentivare l'uso degli strumenti elettronici di pagamento, ma soprattutto per combattere l'evasione fiscale. Come funzionerà? Ve lo abbiamo spiegato anche altre volte. la partecipazione al rimborso sarà su base volontaria, intanto sappiate che non è un obbligo, quindi sta a voi attivarvi o meno. Passerà attraverso l'applicazione della pubblica amministrazione IO, che gli italiani appunto hanno peraltro imparato a conoscere meglio grazie al bonus vacanze. Per l'accesso bisognerà associare al proprio codice fiscale una o più carte di debito o credito, indicare l'IBAN su cui poi si vuole ricevere il rimborso. Non è ancora partito il tutto, come sapete si parte tra un pochino, non è facilissimo, scopriremo tra poco appunto quali saranno le criticità o meno. Quello che sappiamo per certo è che tutta l'operazione che si sta lanciando ha attirato gruppi che hanno anche un core business molto diverso e lontano dai sistemi di pagamento, come è accaduto per un grande player italiano nel settore della distribuzione dei servizi energetici, Enel, che dal 19 ottobre è ufficialmente entrata nel mercato dei servizi finanziari. Ci racconta tutto Giulio Carone, CEO di Enel X Financial Services, che salutiamo e a cui diamo la buona giornata. Ben trovate, grazie. Buongiorno a tutti voi. Allora, ho fatto un lungo preambolo per ritornare sull'argomento che è sempre molto divisivo fra i nostri ascoltatori, perché noi abbiamo gli totali irriducibili del contante, ne fanno anche una questione di privacy, molti dicono ma perché devo essere obbligato a pagare con la carta di credito se non voglio, qua nessuno obbliga nessuno, naturalmente. Il servizio peraltro di pagamento elettronico, avere una carta di debito o di credito è un servizio che la banca eroga, che naturalmente costa, e quindi si possono fare le scelte che si vogliono. Il punto è che adesso c'è questa novità con la quale si vuole combattere anche l'evasione fiscale. Le chiedo, Carone, com'è possibile che un'azienda come la vostra possa diventare, mi passi un po' il termine e ci dica lei se è sbagliato o meno, questa associazione di idee, diventare banca? In che modalità vi state lanciando nel settore dei servizi finanziari e come vi renderete anche disponibili ai vostri clienti per in qualche maniera partecipare poi all'operazione cashback? Partiamo naturalmente con ordine, le ho fatto una domanda complessa che le potrebbe far parlare 20 minuti, ma andiamo al fatto che state diventando banca sostanzialmente. Ma diciamo, intanto chiariamo che non stiamo diventando banca, ma stiamo diventando istituto di moneta elettronica. Cosa vuol dire diventare istituto di moneta elettronica? Vuol dire dare l'opportunità ai nostri clienti, sia attuali che futuri, ma anche a tutti gli altri cittadini italiani, che vogliono di aprirsi con noi un conto corrente, associare a questo conto corrente una carta e poter utilizzare praticamente la nostra applicazione, la nostra carta, per la propria vita quotidiana. Questo per pagare sia pagamenti in prossimità, sia pagamenti digitali, sia diciamo così come si dice, stando comodamente seduto nella propria poltrona, effettuare il pagamento di un bollettino postale, di un documento pago PA o anche di pagare il bollo dell'auto. Questo perché pensiamo che come Enel dobbiamo aiutare i nostri clienti a digitalizzarsi con un percorso, diciamo così, che non guarda solo all'interno di Enel ma anche fuori da Enel, nelle case dei clienti, avendo diciamo così come obiettivo proprio la famiglia, diciamo così, chi sta dietro il contatore, me lo faccio dire in questo modo. Ed è per questo che all'interno diciamo dei nostri prodotti abbiamo inserito anche la possibilità di avere una carta per minori, per i ragazzi da 11 a 18 anni, che quindi possono anche loro dotarsi di uno strumento di pagamento elettronico, chiaramente sotto diciamo il controllo, mi faccio usare questa parola, di uno dei due genitori, e in questo modo diciamo così anche loro possono accedere facilmente a questi strumenti di pagamento elettronici. In più praticamente vogliamo aiutare sempre le famiglie a gestire meglio le proprie finanze, quindi abbiamo anche degli strumenti di analisi, pianificazione anche delle proprie spese, in maniera tale da, come posso dire, migliorare la consapevolezza del proprio modo di spendere. Questo è un grande... Prego. No, la interrompo per ricordare, ma i nostri ascoltatori veramente li abbiamo ossessionati su questo tema, è un grande tema anche di educazione finanziaria per il quale si stanno spendendo interlocutori che, come dicevo prima, appunto appartengono anche a settori molto differenziati, e quindi in questo caso ci provate anche voi. Volevo leggere anche qualche messaggio di qualche ascoltatore che ci sta arrivando, e mi è piaciuto molto quello che ci racconta un amico che ci scrive su WhatsApp. Mio zio, classe 1938, ha detto che se c'è una cosa buona del lockdown è che ha imparato a fare i pagamenti dal cellulare, quindi non per esempio se uno fa un acquisto ovviamente per farsi recapitare la spesa a casa utilizza la carta di credito, e quindi già quello per molti è stato un passo avanti. Qui addirittura abbiamo questo signore di grande esperienza che ha utilizzato a fare i pagamenti dal cellulare. Come ci spiega, dottor Carone, come interagirete proprio con l'operazione di cashback, il cui impianto partirà nelle prossime settimane, questo maxi piano appunto del governo per incentivare l'utilizzo delle carte, ma soprattutto per disincentivare l'evasione? Ma guardi, diciamo, noi in quanto praticamente appunto emettitori di carte possiamo, diciamo, aiutare i nostri clienti a semplificare l'operazione di registrazione sull'applio. Chiaramente, come diceva lei, con il consenso del cliente acquisito, e quindi sempre dietro questa volontà del cliente, noi potremo registrare, diciamo, la carta sul, associandola al codice fiscale sull'app IO, e quindi, diciamo, agevolare questa attività di iscrizione, e in più praticamente possiamo anche dare il nostro IBAN, quindi conto, il numero di conto della nostra, del nostro conto corrente, all'app IO. In questo modo il cliente, semplicemente schiacciando un click dicendo aderisco al programma, si sarà, diciamo, avrà da una parte portato, diciamo così, la propria carta iscritta sull'app IO, e in più praticamente associando anche un conto IBAN su cui ricevere praticamente il cashback. In questo modo anche noi nel nostro piccolo possiamo, diciamo, aiutare i clienti a semplificare questa modalità che, come ha detto lei, molti hanno imparato a usare l'app IO, qualcuno ancora no. In questo modo, diciamo, diamo una spinta ulteriore a semplificare questo processo. Ecco, tra l'altro sicuramente il piano del governo ha aiutato o ha stimolato player come il vostro ad attivarsi anche in questo campo, ma il punto è che il nostro è un paese che ha molto bisogno di implementare la sua digitalizzazione. Abbiamo visto quante problematiche ci sono state la scorsa primavera, per esempio nell'ambito della didattica a distanza, per tutte quelle famiglie che non erano adeguatamente coperte e non hanno potuto permettere a molti bambini di seguire le lezioni da remoto, proprio perché in difficoltà nella propria abitazione ad avere un supporto internet adeguato. Quindi questo è un grande tema, dottor Carone, una grande sfida nella quale probabilmente i grandi player devono dare un contributo. La vogliamo vedere anche complessivamente un po' la vostra presenza nel mercato dei servizi finanziari in questo senso? Sì, certo, diciamo, noi, come ripeto, un obiettivo fondamentale della nostra azione è quella di aiutare i clienti a digitalizzarsi. In realtà, diciamo, chiunque ha uno smartphone, sia Android o Apple, può, diciamo, registrarsi, scaricare la nostra app, diciamo, registrarsi, chiedere la carta se ritiene, oppure utilizzare il cellulare per pagare. In questo modo pensiamo proprio di poter creare dei contatti con i nostri clienti di natura digitale, perché poi con lo smartphone, come diceva lei, si potranno pagare tutte le cose, diciamo così, che, evitando di fare code presso banche o presso sportello o presso una bancheria, oppure praticamente con la carta, semplicemente usare una carta per fare i propri pagamenti, una carta sicura, certo, perché chiaramente ha un PIN e tutto quello che serve per rendere l'esperienza del cliente protetta e sicura. Senta, dottor Carone, mi dice quanti clienti ha nel tradizionale core business come erogatore appunto di energia elettrica, famiglie e imprese, quanti clienti avete in Italia? Ma, diciamo, un mercato libero, noi sul mercato libero, dimentichiamo un attimo il mercato tutelato, sul mercato libero abbiamo circa 13 milioni di clienti, ma chiaramente il nostro servizio non lo riserviamo solo a loro, tutti coloro che... No, esatto, no, però io quello che volevo dire è che, esatto, certo, però no, il motivo è, mi sono voluta far dare questo numero da lei, perché ovviamente qualche ascoltatore dice, ecco, bella questa pubblicità di mezz'ora ad Enel che state facendo. Allora, questa è un'azienda che entra solamente per l'erogazione dei servizi di distribuzione di energia nel mercato libero nelle case di 13 milioni di famiglie, e quindi nel momento in cui queste famiglie riceveranno un volantino, una lettera o vedranno sul giornale il fatto che Enel offre questa cosa e ne sono già clienti, mi sembrava utile fare questo servizio questa mattina per far capire loro che cosa succede, che cosa sta cambiando. Nessuno obbliga nessun altro a fare nulla, se vi convince aderite alle iniziative che un operatore commerciale vi propone. Se non vi convincono queste iniziative, nessuno vi obbliga a fare niente, però è un grande cambiamento che a me questa mattina sembrava utile appunto spiegare a tutti. C'è il traffico, torniamo col dottor Carone tra poco. E se il Vate Meazza si attarda serafico, con sommo rispetto v'annuncio io il traffico. Due di denari. Azzerate le commissioni per i convenzionati, per gli esercenti. Per favore, fate una campagna in questa direzione. Azzerare le commissioni per gli esercenti. Grazie. Al momento il governo riconosce, se non mi ricordo male, un importante credito d'imposta per gli esercenti che decideranno appunto di attivarsi con il POS per consentire il pagamento con carte bancomat ai propri clienti, perché nel territorio ce ne sono ancora tanti che non ce l'hanno e non danno questa possibilità, proprio contestando gli oneri che sono troppo alti. Allora, dottor Giulio Carone, nostro dirigente Enel di questa mattina, dirigente CEO, amministratore delegato di Enel X Financial Services, ci sta raccontando cosa bolle in pentola in casa Enel, visto che sono partiti con il conto corrente Enel XPay, più che bolle in pentola è già partita tutta l'operatività, mi sembra, dottor Carone, dal 19 ottobre. È presto per dire se avete già erogato, aperto conti, erogato carte, qualche piccolo bilancio ce lo può già dare, insomma, quantomeno c'è attivismo dal punto di vista della richiesta di informazioni dei clienti. Che cosa rincuriosisce di più? Ma guardi, diciamo, sicuramente stiamo avendo l'interesse. Un po' incuriosisce il fatto che Enel entri nel mercato dei servizi finanziari, e questo sicuramente è una cosa che tutti si chiedono perché. E comunque, diciamo, stiamo ottenendo i primi riscontri positivi sul mercato. Tendo a chiarire anche che Enel chiaramente, diciamo, oggi va a coprire, diciamo, in parte un mercato che già è sollecitato da tanti player, ma di cui praticamente noi siamo uno dei massimi attivatori, perché, diciamo, ricordiamoci che in Italia emettiamo a quasi 100 milioni di bollettini postali, e questi, diciamo, rappresentano dei momenti di pagamento dei nostri clienti, e noi vorremmo aiutare i nostri clienti anche in questo, cioè a pagare i bollettini, e pensiamo, diciamo così, che avremo su questo un riscontro positivo. Comunque, per adesso, diciamo, siamo soddisfatti dei primi riscontri. Quanto costerà il vostro servizio? Perché vedo che le domande più gettonate, oltre a quelli che mi contestano di farvi questa super pubblicità questa mattina, naturalmente io avrò almeno un anno di fornitura gratuita a casa mia, grazie all'operazione che stiamo facendo oggi. No, a parte questo, dottor Carone, sai, gli ascoltatori sono sempre un po' bizzarri. Chi è molto interessato ai cambiamenti che abbiamo attorno a noi, e chi invece deve, per punto preso, contestare sempre l'approccio ad ogni argomento. Quanto costa il vostro servizio? Ma guardi, il nostro servizio costa un euro al mese, quindi, diciamo, un costo ragionevole, però voglio dire, a fronte di questo costo si ottengono dei benefici immediati. Pagare un qualsiasi bollettino presso con la nostra app vuol dire spendere 50 centesimi, mentre oggi, se uno va a pagare in una tabaccheria o in ufficio postale, spende tra 1,50 e 2 euro. Quindi questa spesa di un euro al mese può essere facilmente recuperata semplicemente utilizzando la nostra app per fare le normali operazioni della nostra vita quotidiana. È chiaro, in questo modo, diciamo, pensiamo di poter andare incontro ai nostri clienti, e aggiungo inoltre che pagare una bolletta Enel sulla nostra app non costerà niente, cioè quello è un che viene azzerato il costo di pagamento per andare ancora incontro ai nostri clienti. Ci sembrava il minimo, almeno, che offriste ai vostri clienti storici questa corsia preferenziale. Senta, dottor Carone, voi siete molto presenti anche nella mobilità elettrica. Credo che questa operazione, appunto, che state allestendo in questo momento con il conto nativo digitale, in qualche maniera potrà favorire anche l'altra gamma di servizi che offrite per quello che riguarda proprio la circolazione sulle nostre strade. Quindi è un po' tutto un cambiamento complessivo che state portando avanti per quello che riguarda il vostro business. Dico sempre che come man mano che l'auto elettrica penetrerà all'interno, diciamo così, delle nostre dite, saremo tutti chiamati a fare un grosso cambiamento, che è quello di passare dal contante alla moneta elettronica semplicemente per aver cambiato auto. Diciamo, non è possibile, non sarà possibile nel futuro fare una ricarica elettrica con 20 euro come invece siamo abituati a fare dal distributore di benzina, ed è anche per questo la nostra, diciamo così, come posso dire, spinta nella digitalizzazione del cliente deriva anche nell'agevolare poi la transizione, diciamo, dei nostri clienti verso praticamente una modalità di mobilità più pulita, che è quella appunto dell'elettrico. Vogliamo aiutarli a dandogli tutti gli strumenti necessari per farlo. Allora, guardi, c'è chi vi chiede un ulteriore sforzo rispetto a quello che già state facendo, rendendo disponibile il servizio finanziario. Un ascoltatore dice: avete intenzione anche di attivarvi con un conto di deposito, quindi tra i disinteressati totali a questa operazione c'è invece chi vi vede già con uno step successivo, quindi proprio come erogatori di servizi finanziari tra quelli che in questo momento gli ascoltatori e risparmiatori preferiscono. Come sa, in tanti tengono i soldi sul conto corrente. Se nel caso in cui vi venga in mente di andare avanti con la vostra operatività, sappiate che il conto di deposito è molto molto gradito fra gli ascoltatori. Silvano da Pesaro, andiamo verso la chiusura. Adesso le faccio commentare, dottor Carone. Silvano, andiamo verso la chiusura. Buongiorno. Sì, buongiorno. Una domanda semplice. È pignolabile da Equitalia la loro carta? Dottor Carone. Aveva anticipato un'altra domanda, Silvano, quindi... Sì, no, perché avete pochi minuti, volevo sapere solo questa cosa, perché è inutile, voi fate, il governo dice dovete lavorare con la carta, però se io apro un conto, per le condizioni che sono, apro un conto, ho una carta e arrivo subito a Equitalia, perché Equitalia, guarda, se tu non hai dato, ma non se dovevi avere, hai capito... Se tu non hai avuto dei Silvano, pagamenti, loro guardano. Allora, lei mi mette un tema complicatissimo a 30 secondi dalla fine della trasmissione. Magari ci risponderà in privato il dottor Carone. Non so se vuole avventurarsi anche una risposta su questo. Io credo che se una carta come un conto corrente vengono aperti o attivati da una persona non solvente che magari ha qualche pregresso con il fisco ha anche la possibilità di andare a pignorare, a chiudere, ad attivarsi su questi strumenti. Dottor Carone, non so se vuole commentare quest'ultima parte. Ma io commento semplicemente dicendo che chiaramente, diciamo, su questo conto corrente si mettono, non è un, diciamo, lo pensiamo come un conto corrente della vita quotidiana. Di servizio, ecco. Di servizio, e quindi diciamo il caso dell'ascoltatore, diciamo, che sicuramente merita un approfondimento prima di rispondere, in questo momento non è la nostra, diciamo, priorità, la dico in questo modo. Benissimo, abbiamo raccontato tutto, dottor Carone, su che cosa vi aspettate, insomma, da questa operazione. 20 secondi. Ma guardi, noi ci aspettiamo intanto, diciamo così, di aiutare i nostri clienti nel digitalizzare la loro esperienza. Li vogliamo guidare all'interno del programma cashback del governo, offrendogli una modalità molto semplice di aderire, e infine praticamente ricordo a tutti che la nostra idea è di migliorare il servizio per le famiglie e quindi anche la carta per i minori. Un servizio ulteriore che vogliamo mettere a disposizione per, come posso dire, guidare questa digitalizzazione che noi pensiamo essere una cosa fondamentale per la nostra nazione. Benissimo, sta partendo tutto adesso, sicuramente in un momento anche abbastanza complicato per le famiglie italiane in cui devono pensare a tanti problemi, però insomma è un cambiamento con il quale dobbiamo assolutamente fare amicizia, prendere confidenza, proprio anche per scegliere consapevolmente. Grazie a Giulio Carone, CEO di Enel X Financial Services. Noi con Due di Denari torniamo domani. A tutti una buona giornata.